e quindi stiamo andando verso una, quello che viene chiamato uno sprawl, che è tutto tranne che smart, potremmo dire che è very stupid, perché significa già soltanto, senza dover andare lì a ragionare di fibre ottiche o digitalizzazione della città, significa andare verso una città diffusa anziché densa, e quindi è facile capire come ciò in termini di consumi di territorio, di combustibili fossili, è inefficiente. Quindi ecco, nel caso dell'Aquila la smart city potremmo dire che sarebbe già abbastanza non fare baggianate come quelle che si stanno facendo. Conoscevamo già prima del sisma dell'Aquila le vicende delle precedenti esperienze che la stessa Italia ha vissuto, le esperienze negative di ricostruzione, quali ad esempio quella del Belice, ad esempio in Sicilia, che si era portato in alcuni casi, nel caso di Gibellina, proprio alla delocalizzazione, senza che ci sia stata una vera e propria, come dire, partecipazione delle popolazioni. Questo è un altro aspetto che non c'è stato. Ecco perché nel momento in cui arriva un ministro e apre dei tavoli di ascolto, noi già lo accogliamo con il tappeto rosso. C'è una donna che semina il grano, volta la carta, si vede il villano. L'Aquila volta la carta è contemporaneamente un'esortazione e un'associazione culturale che l'anno scorso ha dato vita alla prima mostra mercato dell'editoria indipendente all'Aquila. C'erano in tantissimi e di tutti i profili: Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Margherita Hack, Piero Dorfles, Maurizio Maggiani, Daria Bignardi. Valeria Valeri è la presidente dell'associazione. L'offerta appunto culturale è stata sicuramente utile anche per distrarsi, diciamo, ma forse anche per riflettere su quello che non stava andando. Allora, il mio punto di vista è parziale, perché sono una cittadina dell'Aquila. Da quello che vedo da fuori c'è intanto una grande differenza rispetto al terremoto dell'Umbria e delle Marche, che è stato colpito un grande centro urbano che era capoluogo, che è capoluogo di regione. Sicuramente la dimensione del danno è stato differente. È altrettanto vero che ad oggi, quindi ormai a 3 anni, i ritardi, le lentezze e soprattutto i cavilli burocratici, le ragnatele che hanno distribuito sul nostro cammino verso la ricostruzione sono veramente tante. Lei appunto ha parlato di ragnatele, che sono purtroppo, si scopre via via all'Aquila come altrove in Italia, anche quelle della criminalità. Di questo si riflette nei centri culturali della città? Sicuramente, anche perché è la nostra grande paura. Dal punto di vista proprio del cittadino, mi piace pensare che in piazza Duomo, un posto sfigurato dal terremoto, però che è rimasto vivo ad oltranza nonostante tutto, è stata costruita una tenda a ridosso del terremoto, dove i comitati cittadini o comunque chiunque abbia voglia di confrontarsi può andare. È una cosa che per certi versi fa assomigliare la mia città a una città medievale, no? Che vedeva nella piazza il luogo di riunione, se non proprio una città romana, il foro. Lì continua ad esserci un gruppo di persone sempre diverso, perché ci si dà il cambio, che continuerà a far rumore fino a quando sarà necessario farlo. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. E fa bene la cultura a interrogarsi sulla mafia, perché qui come altrove sono all'opera non solo i cinici che gongolano al pensiero di incassi stellari per ricostruire, ma anche i cinici più astuti e pratici, già individuati, ma sempre in azione. A marzo, in un incontro con il ministro per la coesione territoriale Barca, il prefetto di L'Aquila, Giovanna Jurato, ammetteva che se finora sono state 20 le ditte interdette perché colluse direttamente con la criminalità, ben 80 sono state quelle escluse dagli appalti perché in odore di mafia. Un incontro in cui il ministro Barca promise anche il nuovo programma per la futura gestione della governance del terremoto e della ricostruzione. Il programma è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma L'Aquila può ancora attendere? Grazie a Laura Bettini per questo racconto sull'Aquila. 3 anni dopo, Italia incontro luce, torniamo domani alle 6:30 con un'intervista a Maria Carmela Lanzetta, 57 anni, farmacista, sindaco di un comune calabrese, di un piccolo comune chiamato Monasterace, che si è dimessa dopo essere stata vittima di numerose intimidazioni.